24 mattino. Tanti messaggi, qualche polemica e una piccola raffica per introdurre i cani e i gatti. Allora, un albero precipita a Roma, distrugge un taxi, ferisce il guidatore e per fortuna sono vivi i passeggeri. Il Corriere, pagina 21, pensate, 82.000 piante pericolanti a Roma. Ebbè, Massimo Agostini sul Sole 24 Ore a pagina 21, riscende il borsino del pomodoro, siamo scesi a 2 euro per il drammatico datterino, c'è ancora speranza in questa borsa dell'oro rosso. Il Giornale, Castellaneta, pagina 15, pensate, escort e corruzione per due sindaci in un gruppo di comuni del Pugliese dove si cercava di corrompere i funzionari. Il Messaggero, pagina 42, casa all'albanese picchiato perché doveva, al bengalese scusate, picchiato perché voleva entrare nell'alloggio che gli era stato assegnato. La Verità, pagina 23, 2.000 euro a Feltri per un dibattito sulle fake news a Rocchette, vicino a Vicenza. Silvia Di Paola ce lo racconta sulla Verità, esplode la polemica. Vai Vittorio! E infine la perla che voglio offrire come un regalo Oscar, il segno dei tempi, il Sole 24 Ore, ancora Cristina Casadei, a pagina 17, 200.000 persone in coda per due posti di lavoro all'Esselunga. Vai, cani e gatti! Oscar! Eccoci qua! Ma ti pare possibile? In effetti. Cioè, 200.000 persone... per in due effetti. Posti adesso il patron dell'Esselunga nell'aldilà sarà probabilmente soddisfatto perché vuol dire che è anche molto ambito, però non prendiamoci troppo dalla non ma c'è un commento adeguato. È gente che fa, cioè che si mette in fila perché dice ce la farò, sarò uno di questi, lo fa per scrupolo, perché veramente 200.000 sembra una follia, È un piccolo paese. Se hai letto l'articolo, stiamo anche parlando non di un semplice posto di banchista, c'è un training molto lungo, elaborato, sì, e ben fatto, eccetera. Quindi, 390.000 ore di training. Ecco, quindi insomma, stiamo parlando evidentemente anche di una proposta che in apparenza, ma forse anche in sostanza, mi auguro, è diversa da un semplice posto, per così dire, che risolve un problema di mera sussistenza. Però quando il numero 200.000 rivela che l'Italia è un paese che nelle pieghe del trionfalismo del Jobs Act continua ad avere un'enorme quantità di disperati del lavoro. Allora leggetevelo questo pezzo, pagina 17, ricordatevi i nostri numeri, perché ora potete chiamare 800 24 00 24 sull'autonomia, sugli immigrati, sul posto di lavoro, perché il lavoro, caro Oscar, sta diventando, questo penso che siamo d'accordo, un talent, no? E tanto è vero che ora si offre nei concorsi. Un tempo vincevi la bicicletta, adesso vinci l'impiego. Ecco, sì, attenzione, questa dichiarazione da una parte ha una critica che condivido, dall'altra è un po' inevitabile, nel senso che il vaglio delle competenze è il tema fondamentale, competenze non una sola volta nella vita in un concorso, ma che devono essere permanenti e ricorrenti. È una rivoluzione culturale rispetto a quella del posto fisso per sempre, che già da 20 anni non c'è più come era prima. E capisco che a molti appaia amaro, in effetti con numeri così una selezione non può essere fondata oggettivamente, però questo bisogna dirselo, quindi non voglio fare nemmeno io la retorica della competenza vagliata, perché se per due posti sono in 200.000 non riuscirai mai a fare una graduatoria, un esame credibile. Questo è vero. E fra l'altro do un altro dato che oggi sul Sole mi ha colpito molto: golf in calo, ma sempre più italiani. Gli stranieri sono passati da 824.000 del 2012 a 650.000 di oggi. Come lo dobbiamo leggere? Che più italiani fanno lavori che un tempo consideravamo umili solo pochi anni fa? Anche, non dimentichiamoci che poi le qualifiche basse per gli immigrati che sono stati la tendenza in continua crescita da anni. Noi abbiamo un anno alle spalle in cui i numeri sono diventati di riduzione significativa, perché poi alla fine la crisi italiana e le maglie strette sui controlli si sono fatti sentire anche in questo, quindi i numeri dell'Istat ce lo dicono chiaro. La diminuzione è significativa, però vuol dire che, come si vede, sì, c'è anche un fenomeno di quello analogo a quello che dici tu, cioè è evidente che ci sono italiani che non si sempre tirano più indietro. Il Sole, Francesco Prisco, è sempre nella preziosa pagina 17. Allora, intanto si è arrabbiato qualcuno a Scampia, ma intendevo non per parlare delle persone che sono lì, che per me sono eroi, sono cresciuto in una periferia, quindi figuratevi se c'era qualcosa di dileggiativo, ma ovviamente per il degrado che Scampia come modello, il quartierone di periferia, esprime, e ovviamente anche protese di qualcuno del nord che dice: ah, è tutto un magna magna, Telese, è tutto un magna magna. Guarda, io non so cosa mangi tu, io lavoro dalla mattina alla sera, mi alzo alle 4 come tantissime persone del sud, del centro, del nord. Non c'è questa divisione etnica fra chi lavora e chi non lavora. A costo di prendere 200.000 insulti, qui non passerete mai. Vai Oscar, dimmi il tuo pensierino. No, io torno a dire che anche oggi sono molto colpito dall'irresponsabilità totale di alcuni colleghi dell'informazione, perché anche oggi vedo dei titoli: prove di secessione mascherata, la secessione che rimane senza sbocco, la deriva in salsa catalana. Mi pare che molti colleghi abbiano perso evidentemente la tramontana, o peggio che mai temono che la greppia si allontani da Roma, e allora bisogna fare lotta aperta anche su che cos'è l'informazione. Mi dispiace quando si fa guerra civile come quella che vedo in questi titoli, vuol dire che evidentemente la greppia dei soldi titoli pubblici da Roma molti colleghi non vogliono che si allontani. Ma cita quali titoli? Il Messaggero: prova di secessione mascherata, la deriva nordista in salsa catalana. Cioè, ma quando mai? Dove c'è la deriva catalana? Allora, però cerchiamo di essere pignoli, siccome sai abbiamo avuto Zaia, c'è molto simpatico, però sicuramente c'è stata un'accelerazione. Nessuno ha votato per l'autonomia catalana. Il voto, siccome la richiesta oggi del Veneto, giustamente, magari è una piattaforma contrattuale, per bocca del suo governatore è l'autonomia. Sì, le 23 materie della Costituzione. Una modifica costituzionale. Bene, no, l'autonomia è l'attuazione dell'articolo 116. Lo statuto richiede una approvazione di uno statuto con le 23 materie della Costituzione. Non iniziamo a raccontare palle. Non era nella richiesta. Qui non c'è nessuna palla. Non essere offensivo, perché non era nella richiesta. Uno può aver votato per questo quesito referendario senza volere l'autonomia per le 23. Oh mamma mia santa, ma allora qua non ci si intende sulla Costituzione. Cosa sono 23 materie se non una forma rafforzata dell'autonomia ordinaria? Ma perché ci vogliamo inventare delle categorie che non stanno nella lingua italiana? Se hai 23 materie, virgola, secondo l'articolo 116 e 117 della Costituzione, virgola, di autonomia rafforzata, è un'autonomia ordinaria come quella di tutte le altre regioni? Due punti, risposta a capo: no. È chiarissimo che è così. Se adesso vogliamo dire che questa è la Catalogna, cioè la violazione della Costituzione spagnola, vuol dire che non capiamo più che stiamo imboccando una deriva radicale. Ma innanzitutto, come giornalisti, alteratori della realtà semantica, creatori della piattaforma per la radicalizzazione politica, noi stiamo mettendo carburante in un posto dove non c'è un incendio. Lo vogliamo creare noi, Luca? Io no. Ma neanche io. Oh. Arrivano richieste di precisazione, ma è possibile che siano 200.000? Non è vero, vi state sbagliando, state facendo disinformazione. Invece sì, perché il calcolo è stato fatto dall'Esselunga sulle richieste arrivate in un anno, e solo per darvi l'idea, 10.000 curriculum sono arrivati in un mese, 1.200 sono stati chiamati per un colloquio, e questo vi dà l'idea di quanto Esselunga ci mette a smaltire le richieste che sono arrivate per questo posto di lavoro. Sì. Lo so, sembra incredibile. Sembra incredibile, ma è così. Hai detto incredibile? Sì, perché non ti voglio far sentire solo tutte le volte che sento pagina, e allora dico: è incredibile. Cerchiamo di adeguarci. Perché siamo civili. Zan. Forse se meridionalizziamo le espressioni, il sud si sente meno preoccupato per perdere la grippe. Federalismo linguistico e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Eye. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Mattino 8:33 minuti 20 secondi. Renata Polverini al telefono con noi. Oggi, partendo proprio da una bella nota della Palmerini sul Sole, qualcuno prefigura questo scenario. Buongiorno, Renata. Buongiorno a voi a tutti. Che cos'è? È un po' distorta la voce. Pronto? No, non la si richiamiamo. Non si... Sembrava un attentato. Sembrava uno scherzo telefonico. Hai letto tu, ovviamente, questo fondo Oscar, no? Che dice: ma attenzione, perché se il nord lo vince la Lega, il sud lo vincono Forza Italia e i centristi, qua si sta prefigurando una vittoria del centrodestra. Ma sai, se il PD commette l'errore di non capire di nuovo la questione settentrionale, raccoglie quel che ha seminato. Ma buona parte del PD era schierato a favore, Oscar. Ho capito, ora, ma non infatti non era buona parte. Ma non è campanile, Renzi gli ha detto, a Sala ha detto Oscar non andare tanco a votare. No, che Oscar stanco, dai, su, vabbè. Tanco. Ma come Oscar? Ma no, non ti ci mettere pure tu. Cioè, io sono uno che scusa, ha fin Gori, dall'inizio. Che è il possibile candidato. Ecco, Gori ieri alla invece regione, di vantare, rifletti su questo. Era a favore del referendum. Invece di vantare, come sarebbe stato logico, il fatto, e avrebbe avuto pienamente ragione, che a Bergamo c'è stata la percentuale molto più elevata della media regionale. Ieri ha detto, però è stato un errore, non la sua scelta, il tono della campagna, perché la linea che è venuta dalla segreteria nazionale, per esempio Simonetta Rubinato, eletta del PD trevigiana, che da sempre è stata la primissima a fare il comitato per il sì, a scrivere un libro su questo, è stata lasciata sola. Non è che me lo invento io e tu dici che sono per il tanco. No, ma io ti diciamo, io sono meno istituzionale di te nel dire nel dico pacatamente una cosa opposta, cioè io credo che il PD abbia fatto un errore. Allora siamo d'accordo. Doveva avere una posizione univoca, o era tutto a favore o era tutto contro. Invece facendo questa specie di spezzatino in cui l'uomo più importante della Lombardia, cioè il suo possibile candidato, era a favore del sì, mentre il ministro del nord più importante del PD era un partigiano, no, la gente rischia di non capire nulla. E allora questo elemento può dire che questa vittoria prepara sicuramente un contraccolpo forse elettorale. Ecco, poi questa al nord, più vediamo la Sicilia sud, saranno due capitoli di fronte ai quali Renzi, come al solito, ci dirà che non c'entra niente e quindi la battaglia sarà tutta per le elezioni politiche. Però oggi, per esempio, la pagina 7 della Stampa, l'intervista in parallelo di Sergio Chiamparino e Michele Emiliano esprime tutta l'errore, secondo me, la mancanza di approfondimento dopo 20 anni in cui il PD era tornato avanti nel nord, poi è tornato indietro con le amministrative, ma così mi pare che non abbia riflettuto. Cioè, sì, Sergio Chiamparino, l'ex sindaco di Torino e presidente della regione Piemonte, dice: vogliono randellare lo Stato, non dobbiamo accodarci. A fianco il presidente della Puglia, Emiliano, dice: il futuro delle regioni, d'accordo con il Nord, purtroppo il mio partito è senza visione. Quindi non è che mi invento niente, ecco qua qual è la... E secondo me è un errore di cui vedremo poi i risultati. Magari però, sai com'è, Luca Renzi è convinto che alle politiche ribalta tutto lui perché entra lui in campo. Vedremo, io non faccio il previsore. In Sicilia i sondaggi, come sai, da ieri non possono più uscire perché siamo in vicinanza del voto. Gli ultimi che abbiamo visto li deve ribaltare per riuscire a ottenere un risultato di queste proporzioni. Vediamo. Allora, 800 24 00 24, Telese studia, professor Giannino, rimandi l'alunno a settembre. Qui siamo cult, no, Oscar. No. Io niente, sono qui a prendere questo. Lezioni Na, di tu, federalismo, di autonomismo. Sono io che sta tutto speciale. No, il punto è che sui toni, io passo per essere uno che ha i toni estremi, però io sui contenuti sono rigoroso. Non spaccio per Catalogna quello che nasce proprio perché la nostra Corte Costituzionale disse un chiaro, fermo e ripetuto no a ogni tipo di referendum. In passato furono richiesti di tipo catalano. Credo che l'informazione su questo debba essere precisa e rigorosa. E invece, mi spiace dirlo, oltretutto pensa quanto mi duole. Tu mi hai chiesto di fare l'esempio, io ho fatto l'esempio una testata con cui collaboro. Adesso ovviamente mi diranno che non posso più collaborare per quello che ho detto. E io no, due volte me ne dolgo. Ma che dici? E io ma due no. volte me ne dolgo. No, c'è già chi me l'ha fatto notare. Però io due volte me ne dolgo. Perché ti è arrivato un messaggio? Penso che la libertà del pensiero, se fondata sui fatti, deve essere il fondamento, il sale del nostro mestiere. Anzi, lasciami spezzare una parola a favore di un'altra vittima con una trincea molto più esposta, pericolosa della nostra, la collega di Radio Eco Mosca, Tatiana Felgengauer, che è stata accoltellata perché critica verso Putin. Ecco, non dimentichiamo che facciamo paragoni ora, dai. Sto dicendo prima ho detto prima, io non sono polemico, io faccio osservazioni. Ho detto prima, non dimentichiamoci che ci sono colleghi esposti in battaglie molto pericolose e chi colpisce loro colpisce secondo me la libertà che è mondiale di noi tutti. Ecco, aver lasciato solo valorosissime colleghe, io l'avevo incontrata una volta per un incontro dove io ero in platea, Anna Politkovskaya, è un errore di tutti noi. Noi dovremmo riempire di messaggi Tatiana Felgengauer e far capire a Mosca che non è sola. Quando quei giornalisti che criticano i poteri autoritari restano soli, è facile poi eliminarli per i regimi. Allora, Renata Polverini, prego i nostri valenti autori. Luca, mi raccomando, cerchiamo al volo Senaldi per il titolo romanesco di Libero, che è troppo bello oggi, enuncevo non sta. Renata Polverini, romanissima, nuovo, oggi siamo minoranza, Renata, sì, e addirittura uniti, destra e sinistra. No, volevamo chiedere alla Polverini questa come dire, valutazione. La richiesta di uno statuto speciale, no? È una mossa giusta in questo momento per un esponente di Forza Italia come lei? Ma secondo me intanto travalica un po' quello che era il quesito referendario e questo naturalmente secondo me non aiuta, nel senso che Zai ha avuto sostanzialmente un plebiscito, peraltro anche quando è stato eletto ha preso cifre importantissime. Andare oltre quello che è stato il quesito che ha posto ai suoi elettori secondo me è sbagliato. Dopodiché io rimango della mia posizione, penso che le regioni o sono tutte ordinarie o sono tutte speciali. C'erano delle motivazioni storiche importanti per cui ad alcune regioni furono assegnati poteri speciali. Oggi probabilmente, se andiamo verso un paese che deve trovare comunque un'unità almeno, no, negli obiettivi economici dei bisogni delle persone, io penso che bisogna trovare una condizione più equilibrata. Oscar, un attimo, perché su questo punto c'è, come dire, siamo divisi. L'autonomismo differenziato però non è questo in Costituzione, tanto è vero che in Costituzione si prevede che le regioni possano, alcune sì, altre no, e su 23 materie in passato chi l'ha fatto e non è servito a niente, perché in passato lo hanno chiesto il Piemonte, la Toscana, eccetera, eccetera, lo hanno chiesto sempre su un numero di materie, cioè su competenze diverse, di solito molti meno che 23, al massimo si era arrivati a 11, e la stessa Emilia Romagna Bonaccini, che ha cominciato l'ITRA adesso, ne chiede solo 5, quindi è nella testa dei costituenti sin dall'inizio un'Italia con autonomie differenziate, tutto qui. No, ma l'autonomia è differenziata sicuramente, tant'è che Forza Italia sta ragionando ormai da diversi mesi su come applicare appunto questo federalismo differenziato, considerando che forse nel Mezzogiorno d'Italia c'è bisogno di più presenza dello Stato rispetto invece a poteri maggiori alle regioni del Nord. Noi speriamo che si possa andare verso un'Italia dove chi è stato capace di amministrare bene e in qualche modo risponde con servizi migliori alle esigenze dei cittadini, magari se ne occupi con maggiori competenze. Chi invece ha dimostrato che ancora ha bisogno dell'aiuto dello Stato, ecco, che questo Stato sia più presente. Dopodiché lo statuto speciale è una cosa, maggiore autonomia è un'altra, io penso che in questo momento quello che sta chiedendo, quello che è stato posto come quesito referendario ai cittadini a maggiore autonomia, deve andare nella direzione appunto delle materie che la Costituzione prevede, anche perché lo statuto speciale prevede una riforma costituzionale. Forse non va fatta nemmeno una trattativa con il governo, ma bisogna che il Parlamento nella sua complessità metta in campo una riforma. L'ultima è stata bocciata di recente. Oscar. No, ma io lo faccio da contraltare. Ah, non te la mangi, mi la dire... Ma io non faccio il politico. Cioè, l'intervista del giornalista, io faccio giornalista, non mi metto a fare squadra, non è che sono dell'altro partito, cioè, che è con lo stesso part-time. No, scherzo, ecco, no, però siccome però, era detto era tutto un fatto... questo, ma anche anche il testo dell'intesa con le regioni che richiedono l'autonomia rafforzata, poi va sottoposta a un vaglio, non è che si fa solo l'intesa, quindi voglio dire, io non mi metterei tanto, devo dire la verità, a prendere il semantema speciale o meno, perché siccome il Veneto, essendo pronto da tempo, come si vede dalla bozza di disegno di legge regionale già sottoposta praticamente al Consiglio, a chiederla per tutte e 23 le materie, quindi intende una interpretazione letterale della Costituzione, ma forte, estesa a tutte le materie. È ovvio che chiederla su tutte non è una banale autonomia ordinaria rafforzata, è qualcosa di più. Però la mia sensazione è che l'esperienza di quello che avviene in Europa dovrebbe indurre la politica a tentare di maneggiare con cura, attenzione, scrupolo, rispetto della costruzione delle leggi, ma senza pregiudizi questa materia. Perché iniziare a dire no, se questa è secessione mascherata, volete la Catalogna, siete fuori dalla Costituzione, perché questa è l'accusa del dire siete come la Catalogna, significa in realtà ottenere, la storia lo dimostra, l'effetto opposto, cioè incoraggiare di nuovo radicalismi. Eravamo riusciti in questa questione, dopo anni in cui l'intento era esplicitamente quello della secessione, a farla rientrare nel suo ambito, che è quello di, come diceva Renata Polverini, ha problemi diversi, soluzioni diverse che sono consentite dall'ordinamento. Restiamo lì, perché altrimenti, ripeto, facciamo come Rajoy, che dopo aver fatto smontare lo statuto del 2006 ha detto sempre no, no, no, ed ecco questa situazione da cui perde, secondo me, sia la Catalogna che la Spagna. Allora, grazie Renata Polverini, un saluto, volete dire qualcosa? Solo? Eh? Posso dire un'altra cosa? Sì, no, ancora? No, infatti, sì. Volevo dire che io la penso esattamente come Giannino, nel senso che forse noi oggi abbiamo la necessità di rivedere nel suo complesso l'assetto istituzionale, no? Perché se noi andiamo verso questo federalismo differenziato, di cui io sono convinta, e non ripeto quello che ho detto prima, dobbiamo porci anche la grande questione, per esempio, di Roma Capitale. Certo. La riforma di Roma Capitale non è stata la riforma della quale forse questa città aveva bisogno. No, tant'è vero che altre capitali europee hanno tutt'altro tipo di attenzione istituzionale. È vero. Esattamente. Tant'è che io, all'interno della discussione che c'è in Forza Italia sul federalismo differenziato, ho inserito anche questa grande questione. Perché Roma, per la sua ampiezza, per la sua complessità, non si può continuare ad amministrare con i medesimi poteri che hanno le altre. Giustissimo. Gli abbiamo fatto all'italiana, gli abbiamo dato 18 miliardi in gestione separata e senza pensare all'architettura istituzionale. Una riforma che però, non ha fatto una riforma vera. E allora io penso che nell'ambito di questa revisione dell'assetto istituzionale c'è bisogno anche di una nuova forma per Roma Capitale. Mi sembra corretto, perché questa è un'architettura nuova, deve essere accurata in tutte le sue parti. No, ma è così. Perché la confrontiamo sempre con città come Parigi, che hanno un aspetto e anche dimensioni totalmente diverse. Non c'è. Allora, abbiamo le strade in diretta, salutiamo la Polverini e solo un rapido lampo di pubblicità e poi rientriamo con Sergio da Bologna. Per il momento resisto, faccio la resistenza come è giusto fare contro la stupidità. Mattino. 8:47 minuti, 29 secondi, cani e gatti, questo continuo litigio, scrive, non si è firmato, no, il signor Marotta fra Giannino e Telese, che trovo confuso e fastidioso, non si sopporta più, ma non è un continuo litigio, abbiamo tante cose su cui siamo uniti e alcune cose, come nella vita reale, in cui non siamo d'accordo e possiamo raccontarlo. E possiamo raccontarlo, giusto? Possiamo discutere. Finché siamo nello stesso paese, uniti dal grande cordone di Radio 24. Ma no, allora... è uniti dal fatto che anche tra fratelli è così, come sa chiunque, certo, sta in famiglia, e questo non fa venire meno un rapporto fraterno. Come fratello, vero? Oscar. No, eh? Ma perché sarebbe meraviglioso per te, ma per sì, me, per me avere... madre. No, per me... Ah no, la madre, siamo d'accordo, con due figli come noi, si sparebbe. Sergio da Bologna, vai. Buongiorno, io avevo una domanda, visto che si parla sempre del problema della Sicilia come esempio negativo, noi creando altre regioni autonome creiamo degli altri potenziali problemi. Lei pensa. Il Veneto in teoria, visto che potrebbe andare in default per la pedemontana, visto per come è stato scritto il contratto, potrebbe avere dei grossi problemi in futuro, e se andasse in default, chi pagherebbe gli stipendi alla regione? Se assumessero 1000 dipendenti? Mamma mia. O ad esempio, se la scuola va sotto la regione e il Veneto dovesse tagliare, cosa facciamo? Tagliamo, paga, oppure interviene lo Stato, quindi intervengono anche le altre regioni. Non ho capito bene questa cosa. Ma perché? Posso fare una domanda? Perché lei fa una domanda basata esclusivamente sul paradossi. Cioè si rende conto, il paradosso in logica si insegna quando si fa il corso di logica, che il paradosso è l'estrema risorsa in carenza di argomenti realisticamente e inoppugnabilmente logici, cioè conseguenziali. E allora si procede per un'inferenza che, estremizzando un caso improbabile, si sostituisce all'argomento logico. Lei ha fatto esattamente questo tipo di esempi, quello significa che si rende conto da solo che è un po' improbabile quello che dice. In ogni caso, rispondo, l'autonomia, cioè la devoluzione sulla base della sussidiarietà di più competenze al basso, spostando le risorse come c'è scritto nella legge, questo bisogna ricordarlo ai componenti del governo, visto che oggi per esempio sul Corriere della Sera De Vincenti dice: questo significherà però che lo Stato spende meno, cioè lo Stato è fatto anche dalle autonomie, De Vincenti, e nella legge voi dovete spostare le risorse che sono equivalenti all'esercizio dei poteri che darete, ricordiamolo anche al ministro Martina, però, che dice che non si parla di fisco. Quando avverrà questo, chi esercita quelle competenze con quei soldi ne risponde in prima persona. Quindi se il Veneto, come il Lombardia, farà guai, dovrà a quel punto risolverseli però da il soli. Paradosso in c'è logica. C'è anche una valutazione del rischio di affidabilità finanziaria di ogni regione, visto che in passato hanno fatto derivati e così via, e quindi avrà un diverso costo del debito. Quindi, come vede, le sto rispondendo. Però il nostro Sergio non è che fa ragionamenti peregrini, perché il paradosso è una prova a contrario, come in matematica, è una prova a contrario, esattamente. Così il paradosso fa una prova. E io dico che uno Stato che dovesse abdicare il controllo dell'istruzione, dovesse concedere a una regione di fare i corsi di Visigoto, di Molisano, allora, di Veneto, farebbe un gravissimo errore. Esempio, appunto, esempio, esempio concreto. Aspetta che arriva anche Pietro Senaldi fra noi, In ogni Pietro. Land tedesco addirittura il numero di anni dei cicli di istruzione Bene. È diverso. Vuoi dirmi che è un paese ma civile? Ma tu ami la Germania e ci vorresti andare ad abitare? Certo, un paese io federale. No. Che io infatti sono contento di stare in Italia. Questo a prestarmi. Sei non, in onda, non, non usiamo, Pietro, ti abbiamo salutato, non usiamo per comunicazioni serviziose questo canale. Pronto? Buongiorno. Eccoci. Chi era che ti doveva prestare i pantaloncini? Dove no, sei? Sono sei dai, nudo? Sei nudo? No. Sono senti, ma oggi proprio volevi scioccare tutti, eh? Titolo in romanesco. E non ce vonno sta. È tuo o di Feltri? No, è di Feltri. Ah, vedi, andate giù con il vernacolo. E Telese a quel punto si è sentito punto, capito? Telese certo, che dice certo. Sempre pagina, allora, dice ce l'hanno con me. Pagina. Senti, Pietro, spiegaci la posizione di Libero oggi. No, la posizione di Libero, noi saprai che abbiamo sostenuto questo referendum in Lombardia e Veneto. Ovvio. Con molta forza, e abbiamo registrato il fatto che all'indomani del del successo, ci sono delle resistenze da ministri come Martina, De Vincenti, insomma tutti stanno, la prima preoccupazione del governo è porre dei paletti. E l'unico che ha spezzato una lancia in favore del referendum è Renzi, della cui parola però sai si può fidare per 5 minuti, insomma. Lui ha visto che il vento, ma l'ho elogiato, in una direzione, ha montato la vela in quella direzione, ma non è detto che tenga. Guarda che abbiamo notato che nei giorni scorsi hai scritto un editoriale a favore di Renzi sul Libero e quindi sono suonate le campane. Massimo da Monza e Brianza. Pronto, buongiorno, saluto a tutti. Buongiorno. Volevo solo esprimere una mia interpretazione del voto. Sono stato segretario al referendum. E segretario di seggio. Segretario di seggio. Bene. E ho visto che con un'affluenza del 50,64%. Ho semplicemente, allora, si conoscono i vari elettori e si conosce il credo politico dei vari elettori, essendo un paese piccolo. Ho visto che sono arrivati tutti i vari partiti, quindi Lega, Forza Italia, 5 Stelle, Sinistra, PD, eccetera, eccetera, quindi dico, tutti volevano votare sì, perché poi il 98% ha vinto il sì. Quelli che sono mancati, ho visto anche nei vari seggi del mio paese, quelli con le case popolari, con certi, diciamo, i meridionali che hanno ancora interessi al sud, allora hanno votato no o non sono venuti. Mentre invece tutti gli altri partiti sono venuti perché l'importante era votare sì, non pensare al partito in questo momento. Quindi stanno saltando su tutti sul carro del vincitore e quindi dico, semplicemente il sì è una cosa, il credo politico degli elettori è un altro. Questo mi sembra giustissimo. Lorenzo da Padova. Sì, buongiorno, salve. Sì. Volevo dire due parole sulla Catalogna. Prego. Io ho vissuto un periodo in Catalogna e devo dire che forse è un po' semplicistica la rappresentazione di Giannino che i catalani vogliono maggiore autonomia. I catalani hanno sviluppato un nazionalismo crescente che li portava addirittura a richiedere a me di parlare in catalano per la mia tesi di dottorato, e era una cosa quasi ridicola, addirittura le domande a me dovevano farmele in catalano loro stessi. E lo statuto che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale iniziava con la Catalogna è una nazione, quindi cioè, è un po' semplicistico dire. Guardi, io non so se sia semplicistico, ma lo statuto del 2006 era stato approvato anche da Madrid. Allora, il problema è che se una trattativa va davanti da... Se lei dice gli statuti si fanno e ce li rimangiamo, è un altro paio di maniche. Però se lo si fa in quella modalità, si ottiene l'effetto e poi si dice no a ogni richiesta di trattativa, questo è quello che è avvenuto dal 2010 in poi, si butta benzina sul radicalismo, tutto qui, e quindi diventa un eccesso di nazionalismo. Tanto è vero, io ho scritto e detto più volte, chi conosce la realtà che ha sostenuto la Generalitat Puigdemont in questi anni in Catalogna sa che c'è una forma ormai di nazionalismo estremo di destra catalana, e ce n'è uno nazionalismo estremo di sinistra chavista bolivarista antimercato, che è il CUP. Quindi si figuri se non l'ho detto e non lo so e sono semplicista. Dico solo che, siccome seguo la vicenda da molti anni, che voi vedete un iceberg che vi dà fastidio, perché io lo capisco, dice, ma come in Europa tu mi fai l'esame di dottorato in catalano, ha ragione. Però dietro c'è una strategia di dire no a tutto per fomentare il radicalismo. Senaldi, in un secondo, ha vinto Maroni o ha vinto Zaia o hanno vinto tutte e due? Ma no, hanno vinto tutte e due, sono due governatori di due regioni diverse, l'esito, la differente affluenza era più che prevista. Hanno vinto bene. Tutte e due, ma io credo che abbia vinto anche a domani. Grazie, a domani, tornano i cani gatti.